brightness somewhat certainly the same as the five, except that the third out of the eight is more strict, namely to refrain from all sexual activities on a retreat, even with one's spouse or partner. And the remaining four are the same. And then the six out of the eight precept consists of refraining from taking solid food after 12 o'clock noon, or here solar noon. And then the seventh one is to refrain from dancing, singing, playing instruments, and visiting shows, entertainment in general, and then further to refrain from wearing garlands and using perfumes, cosmetics, and ornaments. And the last one is to refrain from the use of high-end luxurious seats and beds. Quindi invece la serie di otto precetti in alcuni casi è simile a quella dei cinque, ma ci sono delle differenze. Per esempio, il terzo precetto, anziché semplicemente astenersi da una condotta sessuale non corretta, qui si chiede l'astinenza totale da qualsiasi attività sessuale durante il ritiro. Per quanto riguarda invece i rimanenti tre, c'è il sesto, che è l'impegno di astenersi dall'assumere cibo solido dopo mezzogiorno. Siccome qui abbiamo l'ora solare, giusto? O legale? Solare. Si tratta di non assumere cibo solido dopo le 13. Questo è il sesto. Nel settimo invece l'impegno è dell'astenersi dal danzare, cantare, ascoltare musica, assistere a spettacoli, usare profumi, unguenti, ghirlande, insomma cose che possano abbellire il corpo. E infine l'ottavo è l'astensione dall'usare sedie, sedili o letti alti e troppo comodi, lussuosi, diciamo. No. When you take the eight precepts, then this means, of course, that you refrain from taking solid food after solar noon. Quindi quando recitiamo, se decidete di rispettare gli otto precetti, questo significa che vi astenete dall'assumere cibo dopo il mezzogiorno solare, quindi dopo le 13 in questo caso. So when you're on a precepts, then you cannot go and have a light meal around what time? Five o'clock. Quindi questo significa che quando c'è lo spuntino delle 5 potete prendere delle bevande, dei succhi, ma non cibo solido. So if you need to take a little bit of food around 5 o'clock, then please take the five precepts, which means then you'll recite the first, the second with everyone else together, and then as for the third, I propose I'll give the party for the third one first, the third out of the five, and then followed by the third out of the eight precepts, and then we'll have it really perfetto. Ok, e quindi se avete bisogno però di mangiare allo spuntino delle 17, allora reciterete solo i cinque precetti, ma siccome c'è una variante al terzo precetto, allora reciteremo tutte e due le opzioni, diciamo, quindi prima quello che riguarda i cinque precetti, quindi condotta sessuale corretta, e poi invece quello che fa parte invece della serie di otto, quindi l'astensione totale da attività sessuale. And certainly then the fourth and fifth precepts we will recite all together, and certainly then those you who are prepared to observe the eight precepts and long-term retreatants will surely want to do this, then you keep reciting, whereas those who would certainly like to have a small snack at 5 o'clock, well, you stop, you just don't follow. Poi il quarto, il quinto li reciteremo tutti insieme, poi per coloro che vogliono rispettare gli 8 precetti, e lo fa sicuramente quelli che faranno ritiro più lungo, penso che sceglieranno di seguire gli 8 precetti, allora continueranno a recitare il sesto, settimo, ottavo, invece quelli che desiderano mangiare dopo l'una, fare lo spuntino delle 17, si fermeranno dopo il quinto. Vogliamo chiedere... Kami Sumi Chachara first, yes, and the other ones. Shall we give like the possibility to go from the 5 to the 8? So for that all. People might start with 5 and then decide to go on to 8. So give them an option, the possibility to go from the 5 to the 8. Yeah, no, maybe of not course, vice versa. No, of course, if after a while you feel your practice is coming along and you no longer need that light, what do you call spontaneous snack, then you stop taking the 5 precepts and instead you opt for the 8 precepts. Mm-hmm. There's nothing wrong with that. Se sentite che la pratica sta andando bene, non avete bisogno del cibo appunto dopo mezzogiorno, quindi riuscite a seguire gli 8 precetti, in qualsiasi momento del ritiro potete passare dai 5 agli 8, magari viceversa è sconsigliabile. Ok. So, then, are we clear on this? Adesso è tutto chiaro, quindi se prendete gli 8 non farete lo spuntino, in poche parole. Eh? Ah, ecco, e vi potete segnare. You can sign your name on the sheet just outside the dining room if you take the 8. Okay.